È difficile nella vita essere persone equilibrate, perché tante volte nel nostro parlare è facile spostarsi da una parte o dall'altra, fare una specie di slalom, vai un po' di qui, un po' di là, ma percorrere una via diritta, una via che comprenda tutto, tenendosi in contatto con una sponda e con l'altra del discorso, è difficile. Voi direte: ma cosa vuoi dire, Don Ambrogio? Voglio dire questo, che oggi si parla molto dell'impegno del cristiano nel mondo. Basta vedere le intenzioni di preghiera che il nostro messalino riporterà. Sentiremo tra qualche momento che si parlerà di chi occupa i posti nell'economia, nella politica, nei luoghi del potere. E come no, giusto pregare anche per loro. Pregare perché le nostre parole siano di intercessione per chi è nella prova, che cosa bella. Pregare per chi frequenta ambienti con la competizione tra i colleghi. E va benissimo. Solo che noi stiamo parlando di San Giacomo. E la prima lettura parla del nostro destino futuro, ma di questo ormai nella Chiesa non se ne parla quasi più. Chi parla mai del nostro destino dopo la morte? Chi parla del paradiso e dell'inferno? E uno può dire: sì, ma se noi viviamo bene, parlando dell'impegno del cristiano nel mondo, ci sarà il paradiso, ci sarà l'inferno. E come no, questo è vero. E tuttavia non ci pensiamo più. Mi dispiace se io devo parlare ogni tanto del compito che faccio, ma non l'ho scelto io, me l'ha dato la Chiesa milanese, me l'ha dato il Vescovo di fare l'esorcista, a tempo pieno. Per cui in questi tempi ogni settimana io faccio almeno due esorcismi, non due preghiere di liberazione, esorcismi, che è tutta un'altra roba. E proprio ieri capita che col demone si parla dell'inferno. Dio tante volte gli comanda di rispondere alle domande dell'esorcista e ci fa quasi una catechesi al contrario, stigmatizzando i nostri errori. Cioè, voi non parlate più dell'inferno, per questo si fanno tanti peccati, perché non si pensa più all'inferno. Io riflettevo e dicevo: ma è vero, è vero. Quando noi eravamo piccoli c'era questo tema, anche un po' di paura, di sano timor di Dio e dell'inferno. E ci venivamo trattenuti anche dai peccati. Ma oggi che dell'inferno non si parla più e non ci sono più peccati, hanno cambiato anche nome, non si parla più di peccati, si parla di sbagli. Vuoi mettere, lo sbaglio è una cosa che si rimedia, e i peccati sono, ecco, l'agnello di Dio che toglie i peccati. Ora, proprio la prima lettura di oggi di San Giacomo ci presenta come un dialogo tra un'anima salvata e un'anima perduta nell'inferno. Se avete il messalino, guardate, se no sarebbe bene che ve lo comperaste, perché è diverso seguire a mente o seguire con un testo. Anche a scuola ci sono i libri di testo, no? Sapienza capitolo quinto. Il giusto starà con grande fiducia di fronte a coloro che l'hanno perseguitato e che hanno disprezzato durante la vita le sue sofferenze. E saranno stupiti questi che sono i condannati per la sua sorprendente salvezza. E diranno: ma guarda, noi l'abbiamo deriso, l'abbiamo preso a bersaglio del nostro scherno, abbiamo considerato stolta la sua vita, come mai? Adesso lui è tra i figli di Dio e la sua eredità è tra i santi. Amici, non vi pare di sentire la parabola di Gesù del ricco Epulone? È la stessa, eh? Allora continua quest'anima dannata. Noi siamo andati per sentieri iniqui, rovinosi, abbiamo percorso deserti senza strade, non abbiamo conosciuto la via del Signore. Amici, queste parole vanno predicate, queste parole vanno meditate. Ci danno la sapienza. Quale profitto ci ha dato la nostra superbia? Quale vantaggio ci ha dato la ricchezza con la spavalderia? Tutto questo è passato come ombra fugace. I giusti, al contrario, vivono per sempre. La loro ricompensa è presso il Signore. Guardate che delicatezza. E di essi ha cura Dio stesso. Gesù non dice che si alzerà e si metterà a servirli? Questo è stato scritto ben prima. Bene, cari amici, allora facciamo bene a pregare per la politica, ce n'è bisogno e quanto. C'è bisogno che parliamo della Caritas e come lo facciamo troppo poco. Però per favore meditiamo su tutta la parola di Dio, anche quella in cui ci parla del nostro futuro destino. E se ben guardiamo, il Vangelo è molto sbilanciato su questo, eh? Tutte le parabole del Regno dei Cieli, o quando Gesù parla là fuori ci sarà pianto e stridore di denti. Paradiso e inferno sono due realtà di fede. Peccato che sia il diavolo a dovercele ricordare. Io invece, come il vostro prete, che conosco il modo di agire del diavolo, non ho paura di parlarvene con frequenza, anche se magari lo so, l'ho sentito. Qualcuno dice, dai, è sempre lì su questi discorsi. È la Chiesa che mi ha dato questo incarico, amici.